nel ciclismo su pista in Inghilterra soprattutto è sentito molto di più. Negli ultimi anni sono riusciti anche ad avere grandi successi su strada, vedi Cavendish, vedi Wiggins, però è una grande tradizione che hanno il ciclismo su pista, quindi sarà ancora più emozionante parteciparvi, visto che è proprio in un paese dove la pista è veramente sentita. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia su pista veniamo da un paio di anni dove c'è sicuramente da recuperare sulle migliori. Vediamo di cominciare da quest'anno, comunque di confermare quello che abbiamo cominciato già l'anno scorso con la medaglia al mondiale. Eh sì, perché 23 anni, veronese della Liquigas Cannondale, la stessa squadra del nostro amico, del grande amico di Radio 24, Ivan Basso. Nel 2011 ha vinto l'argento mondiale nello scratch. Beh, decisamente meno bene per molti aspetti sono andati invece via gli ultimi mondiali di Melbourne. C'è stata quella caduta provocata dal cinese Liu Hao che ci ha fatto tenere il fiato sospeso per parecchie settimane. Una brutta botta al coccige e si è temuto il peggio, è vero. Adesso come stai? Vero, vero, vero. Ma diciamo che con la caduta io ho cercato di metterla alle spalle subito, nel senso che è stato un mondiale sfortunato, è partito male con lo scratch, che poteva andare a 5 giri dalla fine, potevo vincere la maglia, invece ho concluso ultimo perché comunque il mio attacco è stato forse un po' troppo prematuro, però mi sono giocato il tutto per tutto e continuato, diciamo, al peggio con quella caduta nell'Omnium che proprio non ci voleva. Subito si temeva il peggio, nel male comunque c'è stata la fortuna che la frattura alla fine non c'era, e quindi dai, prendiamo atto di questa fortuna nel male e mettiamo alle spalle la caduta. E ora ho ripreso perché ho voluto fare le cose con calma. È saltato un appuntamento importante come il Giro d'Italia, però bisognava fare così in un anno dove l'Olimpiade è al centro di tutto per me.